Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Erano grandi con un sacco di pelo, ma erano anche in tanti, e adesso ne avremo uno solo, o una, perché c'erano maschi e femmine. Ascoltate i titoli e capirete subito di chi stiamo parlando. E sì, certo, benvenuti a Medius. La grotta messicana dei grandi cristalli arriva a Bologna in occasione di Arte e Scienza in Piazza. Una volta clonato, cosa ce ne facciamo di un mammut gigante, peloso e solitario? Ne discutiamo con un genetista, un filosofo e un evoluzionista. Procrastinare, ovvero la tendenza a rimandare tutto. Un ricercatore italiano ne parla su Nature. Noi però del mammut parleremo fra poco, adesso incominciamo con una cosa, altrettanto sorprendente. Il mio ospite questa sera è Paolo Forti. Buonasera, Forti. Buonasera. Professore di geomorfologia e speleologia all'Università di Bologna. Sì, esatto. Siamo da lei anche perché a Bologna è partito questa settimana Arte e Scienza in Piazza, un appuntamento che c'è ogni anno, è già arrivato un po' di edizioni e durerà fino al prossimo weekend. All'interno di questo evento c'è uno spazio dedicato, forse a una delle cose più sorprendenti dal punto di vista scientifico degli ultimi anni. Sono le grotte di Naica in Messico. Ci dica brevemente di che cosa si tratta. Le grotte di Naica sono delle piccole cavità dentro, che sono state scoperte all'interno di una miniera d'argento, dove sono stati scoperti i più grandi cristalli del mondo. Sono cristalli di gesso lunghi 12 metri e più. Questa notizia era già circolata qualche anno fa, abbiamo visto anche delle immagini, forse alcuni dei nostri ascoltatori hanno visto dei servizi su questa cosa. Adesso ci sono delle novità molto interessanti. Vorrei ascoltare insieme a lei, Forti, le voci che arrivano da un filmato. È stato il primo filmato che è stato fatto nel momento in cui si è deciso appunto di far vedere che cos'era questa grotta stranissima. Sentiamo insieme. Sì. Non so se si vede la mia faccia, ma è molto forte. Cioè, è un casino. E poi va fuori fuoco perché l'appannamento ha il cambio di fuoco, secondo me. Muy caliente. Scusate se pulisco. Muy caliente, dice uno. Però muy bonito. Sì. Però muy bonito. C'è un accompagnatore, evidentemente uno speleologo messicano, forse con loro. Chi sono questi Forti? Dunque, la persona che sta filmando è Tullio Bernabei dell'Associazione Speleologica La Venta, di cui faccio parte anch'io, sì. E poi vi erano dei colleghi messicani. Dei colleghi messicani. Il problema era ovviamente il calore e l'umidità che immediatamente appannava l'obiettivo e non faceva assolutamente prendere immagini decenti. E infatti in questo filmato si vede che praticamente ogni 4-5 secondi una mano passa sull'obiettivo, uno straccetto, perché sennò sarebbe completamente appannato. Come sono le condizioni ambientali in questa grotta? La grotta ha una temperatura interna di circa 47-48 gradi, però è l'umidità che arriva al 100%, ed è quella la cosa mortale della grotta. Deve pensare che dentro quella grotta non si può sopravvivere senza protezioni più di 10-12 minuti e si viene bolliti al vapore. Adesso, cominciamo ad andare verso l'attualità, avete delle tute, avete progettato delle tute che però non è che consentono di star dentro tranquillamente. C'è sempre Dunque, un tempo... abbiamo progettato delle tute basate sulla barriera termica data dal ghiaccio che ci permettono di rimanere all'interno molto di più. Il molto è sempre relativo, circa 40-50 minuti come massimo. Queste grotte, com'è che si sono formati questi cristalli così grandi, 12 metri? Si sono formati per una condizione particolarissima e quest'acqua termale era pochissimo sovrasaturata rispetto al gesso e quindi si sono potuti formare solo pochi cristalli che nell'arco di 250.000 anni si sono potuti accrescere invece che formare nuovi cristalli, si sono sempre cresciuti gli stessi. Quindi in un quarto di milione di anni si sono formati 150 cristalli grandi invece che milioni di cristalli piccoli. È chiaro, è semplice e spettacolare allo stesso tempo. Però qui siamo in una miniera, quindi questa grotta vive del fatto che costantemente viene estratta l'acqua per riuscire a lavorare in miniera. Sì, bisogna pensare che i cristalli fino a 25 anni fa erano sott'acqua, dentro quest'acqua bollente che li faceva crescere. Poi la miniera ha cominciato a pompare via l'acqua per cavare l'argento e a questo punto i cristalli sono emersi e quindi noi li abbiamo potuti vedere. Ma questa è una condizione che continuerà per poco tempo ancora, perché quando la miniera chiuderà tra 4-5 anni, i cristalli torneranno sott'acqua e nessuno li potrà più vedere. E qui parte questo vostro notevole e singolare progetto, che fa un po' il paio con quello voi dite sempre così, di Abu Simbel, no? Tempio trasportato in superficie. Esatto, la nostra idea è che una volta che la miniera chiude sarebbe utile che i cristalli potessero essere conservati per l'umanità, che li possa vedere anche in futuro, e questo potrebbe essere fatto sollevando praticamente queste grotte di circa 200 metri, sempre dentro la montagna, portandole in una zona non interessata dall'acqua e a una temperatura in cui i turisti potrebbero entrarvi senza dei grossi problemi. E questo probabilmente avrebbe anche una funzione, direi, economica e sociale per la zona, perché questo paesino vive della miniera al momento. Sì, è chiaro. Lei pensi che Naica ha circa 2.000 abitanti, 1.000 lavorano in miniera, quando la miniera chiude è chiaro che chiude tutto il paese. Certo. Se ci fosse un po' di turismo probabilmente il paese non morirebbe. Senta Paolo Forte, come la vede questa impresa? È fattibile? Siete abbastanza ottimisti? Personalmente io sono una persona di solito ottimista, questa volta lo sono un po' meno, perché il problema è che mentre fino a prima del fattaccio dei Buddha afghani l'UNESCO lavorava anche indipendentemente dai paesi di origine, oggi bisogna attendere la volontà messicana di fare questo progetto perché si possa partire. E lì vede la cosa un po' più critica. Più che altro perché la miniera è una miniera privata di una persona molto ricca che non è detto sia interessata a fare queste cose. Teneteci informati, perché naturalmente perdere un oggetto di questo genere sarebbe veramente un delitto. Noi continueremo, noi di La Venta e l'Università di Bologna sicuramente continueremo a batterci per questo. Grazie Forti. Segnalo a chi ci ascolta che il 13, cioè il prossimo weekend, a Bologna ci sarà un appuntamento gestito appunto da lei e anche da altri suoi colleghi, nel quale si potranno sapere molte più cose intorno a questa splendida grotta. Andate su qualunque motore di ricerca, digitate Arte e Scienze in Piazza Bologna e trovate tutto il programma. Medios, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo al nostro gioco, preparatevi, c'è il quiz. Quiz che questa settimana arriva da una notizia di pochi giorni fa, che per il momento è ancora ben poco circolata. La domanda: sta per arrivare una tecnologia di grandissima efficienza nell'individuare la presenza di esplosivi, con evidenti applicazioni per esempio nelle procedure di sicurezza degli aeroporti. Su quale strumento, definiamolo così, si basa questa tecnologia, fra i tre che ora vi dico? Primo: è basata questa tecnologia sulla sensibilità chimica delle piante, e ci scriverete piante. Oppure è basata sulla capacità che una particolare specie di formiche, la Parotrechina longicornis, ha di cogliere l'odore che, sotto forma di minime emissioni di gas, esce dagli esplosivi, e ci scriverete in questo caso gas. Ultima possibilità: molti esplosivi sono leggermente fluorescenti, pochissimo, ma lo sono, con degli obiettivi molto sensibili, quelli che si usano per fotografare le stelle, l'esplosivo viene quindi individuato, e ci scriverete stelle. Come al solito, all'SMS 349 238 6666 e il libro che si vince questa settimana, è un grande classico, Relatività, esposizione divulgativa e scritti classici su spazio, geometria, fisica, e l'autore non poteva che essere Albert Einstein, edito da Bollati Borenghieri. In collaborazione con IBS.it. E la gente gli stava intorno con grida di meraviglia, ma anche di timore, sentendosi solo parzialmente protetta dalle grandi sbarre metalliche del recinto. Sempre più folla, accorsa da tutto il pianeta all'Expo 2015 per ammirare il grande animale che la genetica aveva resuscitato dopo 15.000 anni. Una folla percorsa da continue esclamazioni di contenuto stupore che da ognuno dei presenti si levavano fino a formare un ululato inquietante accompagnato dai flash di centinaia di macchine fotografiche. Finché il prevedibile e irreparabile precipitò nei fatti. Il grande mammut, terrorizzato dalla folla, sfondò il recinto e si fece largo fra le genti che si aprirono davanti al suo incedere come acqua solcata dalla prua di una grande nave. Uscì nelle strade di Rho, prese la Milano Laghi, poi l'autostrada dei Fiori, a Tortona deviò verso Alessandria, si mise sulla statale del Turchino e alla prima vecchia galleria si incastrò, rimanendo con il grande sederone verso la Lombardia e le zanne di 10 metri verso la Liguria. No, perché poi, questo sarebbe il dato predominante, cosa sarebbe la vita di un mammut rimesso in circolazione nel terzo millennio? Ecco, sarebbe un'esistenza un tantino triste. Guardando bene nei suoi occhi, a 5 metri dal suolo, si scoprirebbero lacrime di un chilo l'una, perenni. E poiché è noto che lo stress, quando è forte, fa anche perdere i capelli, ecco, insomma, finiremmo per avere un mammut pelato. Magari con uno di quegli intollerabili riportini che non ingannano nessuno. Oh, Chiara, questa è la storia di oggi. Tragica. Tragica, no. Che nasce però da una notizia vera circolata pochi giorni fa. Sì. Ci hanno riprovato un gruppo di giapponesi con a capo il famoso Akira Iritani, che è stato sulle pagine di tutti i giornali, ha annunciato appunto di poter clonare il mammut. No, ma non è che l'hanno già fatto. Ha annunciato di poterlo fare. Vogliono partire con questa cosa. E allora noi dobbiamo fare ordine. Però, Chiara, questa storia noi dobbiamo incominciarla dal punto giusto. Sì, Federico, dobbiamo assolutamente partire dal punto più importante scientificamente, quindi quello genetico, sì. Quello dell'embriologo che abbiamo appunto qui questa sera, per capire appunto innanzitutto quante possibilità ci sia che questo possa essere clonato. E poi divulgheremo la parte, diciamo, cose, certo. più di costume. Ecco. Pasqualino Loi, buonasera. Buonasera. Lei è docente di veterinaria all'Università di Teramo, è anche embriologo e tra l'altro fa parte di una pattuglia di primissimi clonatori nella storia della genetica contemporanea, no? Sì, mi occupo di questo aspetto, di questo ramo della ricerca da qualcosa come 18 anni. Quindi ancora un po' prima della famosa Dolly. Certo. È passato alle cronache il professor Loi per aver clonato un muflone, corretto professore? È corretto quello che dice, sì. Allora, lei intanto adesso deve spiegare ai nostri ascoltatori, perché dobbiamo ricordarlo, ne abbiamo già parlato altre volte, però dobbiamo ricordarlo, com'è che avviene il meccanismo. E in questo caso però non descriviamolo in generale, perché andiamo a clonare un mammut. Cosa dobbiamo fare? Beh, la procedura tecnicamente parlando è la stessa, come si fa un trapianto nucleare. La clonazione veniva chiamata prima anche trapianto nucleare, che insomma rende un po' meglio che cosa si fa. Se lei volesse clonare un mammut o qualsiasi altro animale, deve avere due elementi: una cellula resa da un tessuto dell'animale che vuole clonare, dal mammut in questo caso, o da una pecora, che in questo caso ci sarebbe, sembra che abbiano identificato, c'è uno studio dei colleghi giapponesi che conosco, Akira Iritani, che ha pubblicato 2 anni fa uno studio dove sono stati in grado di isolare nuclei, che è una cosa sorprendente, da tessuti di mammut, da osso in modo particolare e da muscolo, da un tessuto di mammut vecchio di 15.000 anni. Abbiamo i nuclei, la cellula, ovviamente la cosa importante è il nucleo. Dall'altra parte dobbiamo avere un'oocita. L'oocita è la cellula uovo femminile, sì. Che solitamente viene fecondata, va bene? In questo caso noi non la fecondiamo come avviene in natura, ma la priviamo del proprio DNA, dei propri cromosomi, e le sostituiamo con quel nucleo del mammut, in questo caso, come voi volete, oppure della pecora, di qualsiasi altra cosa da clonare. In questo modo avremo un nuovo cita di un mammut ipotetico. Bene, questi sono impossibili da trovare, non ci sono. Per fare le cose ben fatte avremo bisogno di un uocita prelevato da un elefante, e tra elefante asiatico e elefante africano, l'elefante asiatico è quello che c'ha, è molto più vicino dal punto di vista filogenetico al mammut. Ma quello africano è più grande. Però è più distante, è molto importante la vicinanza filogenetica. D'accordo? Ok. Ovviamente anche avere occhiti di elefante non è impresa agevole. No, perché immagino. Il ciclo dell'elefantessa è estremamente complicato, è lungo, un'elefantessa ovula ogni 4 anni e si sa veramente poco sulla fisiologia della riproduzione di questo animale. Quello che hanno fatto questi colleghi giapponesi, che mi sembra una cosa intelligente, è quella di utilizzare ucciti di un'altra specie, un altro mammifero, il topo. Mm-hmm. Io avrei utilizzato il bovino, secondo me dovrebbe funzionare meglio. Anche perché gli elefanti odiano i topi, lei lo sa questo. Tremendamente. Esatto. Non glielo si deve dire. Non glielo si deve dire. Quindi c'è questo aspetto comportamentale, ma anche genetico in effetti, no? Perché effettivamente in una cellula noi abbiamo il DNA che c'è dentro il nucleo, giusto? Mm-hmm. Dentro il nucleo, nei cromosomi. Poi c'è un altro DNA, che è il DNA dei mitocondri, sono i piccoli organoli dentro la cellula che sono le centrali energetiche della cellula. Anche lì c'è DNA, d'accordo? Vabbè. Allora, in una cellula perfetta dovremmo avere il DNA del nucleo che va a dialogare e deve capirsi col DNA che c'è nei mitocondri. Certo. Se no, ovviamente non funziona la storia. Quindi ovviamente il DNA mitocondriale del topo è diverso da quello del mammut. Quindi non è che sia, però nonostante questo limite, questi ricercatori giapponesi hanno visto che la metà degli ucciti di topo nei quali era stato inserito il nucleo di mammut ha iniziato a funzionare. Qualcosa funzionava. Ma quindi usiamo il topo come sponda praticamente. È indispensabile usare il topo per due motivi. Il primo è che è impensabile avere ucciti di mammut, non bisogna neanche pensarci, ma anche di elefante, è estremamente difficile averli, uno. Poi è facile attendersi che i nuclei del mammut dopo 15.000 anni sotto il ghiaccio non siano tutti perfetti, giusto? Certo. Beh, certo. È facile che ce ne siano che siano degenerati, quindi scassati, dovrei testarne numeri importanti, cosa ne so, 1.000, 10.000. È un lavoro lunghissimo. Ora, ucciti di topo ce ne sono quanti lei ne vuole, ma anche di bovino, per esempio. Mm-hmm. Quindi in questo modo andrei a testare, di questi 10.000 nuclei magari 100 sono ancora vitali. Da come mi accorgo che sono vitali? Dal fatto che dopo che metto il nucleo dell'elefante dentro l'occita inizia a dividersi come se fosse fecondato, capisce? Ah, sì. Ok. E a quel punto però bisogna avere, appena si innescano, dobbiamo bene, metterli nell'elefantessa. Dobbiamo innestarlo. Se volessi fare un mammut, il bovino non va bene per il solito discorso del DNA mitocondriale, giusto? Certo. Però io posso prendere questo embrione, diciamo che inizia a dividersi, no? Lei lo sa, prima una sola cellula, poi diventa 2, poi 4, poi 8 e così via. E alla via. Quando diventa 4-8 cellule, quando arriva a 4-8 cellule, io ne prendo una cellula di questo e la metto dentro un'occita enucleato, quindi senza DNA, di un elefante asiatico. Oh, eccoci qua. E lì la chance di far nascere un animale, non direi che è impossibile, è abbastanza probabile, non saprei dire le percentuali teoriche, ma... Quanto tempo potrebbe essere necessario per arrivare a un risultato? Ma io penso che un anno di lavoro potrebbe dare delle indicazioni. Non tanto, ho capito. E poi a quel punto però non siamo ancora sicuri della riuscita. Direi di no. Ma dal punto di vista fenotipico, come si dice in questi casi, cioè esteriore, verrebbe fuori un mammut, non una via di mezzo. Verrebbe totalmente mammut. Come le dicevo, il DNA mitocondriale non è responsabile di caratteristiche fenotipiche, cioè di come si presenta l'animale. Producono solo energia. Sì. Le caratteristiche morfologiche dell'animale risiedono nei cromosomi, nel DNA, nel nucleo. Quindi lei avrebbe al 100% fenotipicamente, lo definiamo noi, quindi morfologicamente, forse più facile da capire, un mammut. Però scientificamente non è una cosa particolarmente rilevante, sarebbe... Non è impossibile davvero. No, le dicevo, dal punto di vista scientifico non riveste particolari interessi. No, per me no. Non c'è niente di nuovo, vedere un nucleo di mammut verrebbe elaborato allo stesso modo di un nucleo di pecora o di topo, non è... C'è questa curiosità, agli scienziati piace, insomma, spingere quelli che sono i limiti, la cosa è affascinante, no? Poi è il tipo di animale che ha sempre alimentato la fantasia di tutti noi, no? Infatti adesso ci arriviamo anche a questo aspetto. Va bene, grazie professor Loi, ci ha dato tutto quello che volevamo sapere. Arrivederci. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Dunque, dobbiamo tornare al nostro mammut, Chiara, che avevamo lasciato con l'embriologo che ci ha detto che in fondo lui non è molto interessato alla... No, perché scientificamente, geneticamente, non apporta nulla di nuovo. È esattamente lo stesso meccanismo che si utilizza per il topi, per Dolly, per il muflone di cui ci ha parlato. E quindi questi giapponesi che hanno lanciato l'impresa, non è che c'è già il mammut. Beh, dai, diciamocelo seriamente. L'impresa l'hanno lanciata perché se dovesse veramente esserci tra un anno e mezzo, diceva più o meno... Sì, sì. Insomma, pensa a esporlo veramente all'Expo 2015 a Milano. Come noi abbiamo detto all'inizio di questa... quella sarebbe veramente... Avrebbe un successo quello sarebbe risolverebbe il... anche un po' di problemi di questa Expo, che non si sa bene cosa potrebbe combinare. Però, insomma, per approfondire tutto ciò abbiamo per forza dovuto ricorrere per due terzi alla filosofia, cioè Maurizio Ferraris, buonasera Ferraris, filosofo. Buonasera. E anche Telmo Piavani, filosofo della scienza pure lui. Buonasera. E anche evoluzionista. Però, ecco, abbiamo tirato dentro anche questa competenza qua. Allora, perché? Perché? Voi che cosa pensate di questa cosa? Abbiamo detto che scientificamente non ha rilievo. Però certo ha un suo grande fascino, ma è sbagliato questo fascino, Ferraris? Ma più che altro è sorprendente, nel senso che è già una tendenza che la scienza ha molto di diventare spettacolare, perché c'è bisogno di far notizia sui giornali, questo per avere dei finanziamenti, il che è legittimo. Questa cosa qua del mammut, uno adesso fa un po' pietà umana questo mammut, perché essere richiamato da delle profondità virtuali che lui del resto non ha mai conosciuto, non essendo mai stato attualmente un mammut ai suoi tempi, e risorgere qua guardandosi attorno un po' stupito e perplesso con quelli che fanno, magari che si prendono degli aperitivi con i cubetti di ghiaccio del Pleistocene, perché c'è anche quello. Sì, le carote dall'Artico, potremmo fare dei cocktail coerenti, lei dice, certo. Sì, no, infatti potrebbe essere tutto un insieme. E quindi direi, è chiaro, è molto giocare sul miracoloso, sul fantastico, per suscitare l'immaginazione delle persone. Io personalmente sono per aver pietà per il mammut, che potesse restare nel suo sonno virtuale per sempre, anche perché poi, attenzione, si comincia con il mammut, ma poi si potrà fare anche con delle persone, in fondo che cosa vieta, per non parlare di tutti quei signori che si sono fatti mettere sotto mummificare anni fa, che dicevano che poi quando la scienza avrebbe trovato il rimedio, e allora cosa si fa? Al prossimo Expo si fanno risorgere questi signori? Eh beh, certo, sì, che sarebbe fantastico dal punto di vista commerciale, però mi rendo conto che... un po' farà brividire. E anche forse dal punto di vista evoluzionistico, Telmo, insomma, lei cosa dice? Avremo dei problemi forse, no? A farlo risuscitare in questo mondo che non è il suo. Non c'è dubbio. Mi associo all'invocazione di pietà per il mammut, ma io aggiungerei, oltre all'elemento di spettacolarizzazione che mi pare evidente, forse però ci sono altri elementi di attrazione quasi inevitabile per noi. Un po' c'è il senso di colpa, visto che se lui non c'è più, una parte della responsabilità ce l'abbiamo anche noi Homo sapiens. Questo dobbiamo dirlo, infatti volevo chiederlo, ricordiamolo, perché li abbiamo massacrati noi. Certo. Ci siamo mangiati tutti, uno dietro l'altro, sostanzialmente, non soltanto il mammut, ma in generale tutti i mammiferi di grossa taglia che abitavano nelle Americhe, in Australia. E poi c'è anche un altro aspetto, secondo me, che noi siamo molto attratti dall'idea che il DNA sia una sorta di codice, di documento che noi possiamo andare a trovare e a modificare, e quasi magicamente, sostituendo delle letterine, viene fuori un altro animale. È vero, questo è verissimo. E in realtà il DNA poi non funziona così, perché il DNA è inerte, non dobbiamo averne un'immagine antropomorfa, è sempre immerso in un contesto, e questo è il motivo anche delle difficoltà tecniche ancora grosse che ci sono per questi tipi di tecniche, perché se anche tu ci riesci, poi questo povero individuo solitario deve essere immerso in un ecosistema. E possiamo anche facilmente immaginare, per esempio, che un batterio, un agente patogeno che colpisce gli elefanti, o per il quale gli elefanti sono diventati immuni, invece nel suo caso possa essere molto, molto pericoloso. Quindi lo esporremmo anche a dei rischi inutili, e sarebbe anche un po' una crudeltà, oltre che una mancanza di pietà. Ci sarebbe anche un grosso problema ambientale, in quanto questo animale viveva nell'era glaciale, certo, e quindi dovrebbe essere tenuto in luoghi a tutt'altro che a Rho all'Expo del 2015. Praticamente la Siberia dovrebbe essere, per come sono le temperature lì oggi, il suo confine meridionale, insomma. Sì. Esattamente. C'è però anche un altro elemento che io aggiungerei, e questo per un evoluzionista è abbastanza inquietante, perché Il fatto che sia diventato più facile nasconde un avanzamento tecnico, perché prima si pensava che per ottenere un risultato del genere, almeno in linea teorica, fosse necessario ricostruire effettivamente il DNA di questi animali, traendolo per esempio dai peli congelati trovati nel permafrost, nel ghiaccio, che sono molto ben conservati. Adesso però ci si potrebbe arrivare anche in un altro modo, cioè mappando il genoma dell'elefantessa asiatica, capendo quali sono le mutazioni tipiche invece del mammut e implementandole, cioè facendo una sorta di ingegneria, una sorta di genoma sintetico che sarebbe simile a quello del mammut. Ora, questo è un po' più facile perché accorcia un po' di più la tecnica, però apre una domanda interessante. Noi questo genoma completo lo avremo anche fra poche settimane del Neanderthal, cioè del nostro cugino più stretto. Ecco, e a quel punto, alle patatracche, la tecnica potrebbe essere applicabile anche a un genoma di una nostra specie strettamente cugina. E questo secondo me agiterà molto le acque, perché vorrebbe dire che in quel genoma dobbiamo metterlo dentro uno scimpanzé e verrebbe fuori un pasticcio terrificante. Sì. Ecco, Ferraris, ma nella nostra introduzione noi ci chiedevamo, qualora lo risuscitassero, diciamo così, si troverebbe da solo, perché non è che possono risuscitarne 10 individui, sarebbe solo. E da questo punto di vista, risuscitassimo anche il Neanderthal o qualsiasi altro animale o specie, a questo punto la socialità dove la mettiamo? Infatti questo, adesso, senza voler essere blasfemo, è uno dei problemi che io ho sempre pensato rispetto alla resurrezione classica, quella secondo cui gli esseri umani finirebbero poi dopo tutti quanti in paradiso, tutti a 33 anni e quindi anche con rapporti di parentela confusi, perché sembra che l'età della resurrezione sia questo. Già uno immediatamente si immagina questa situazione comunicativa complicatissima, dove nonni, nipoti, eccetera, tutti insieme a parlarsi, e almeno, diciamo così, in paradiso c'è compagnia, mentre, come lei ricordava, in queste resurrezioni isolate uno si trova in un mondo di cui non ha la più pallida idea, nulla gli assomiglia. Oltretutto, poi se viene, immagino poi che a un certo punto l'animale tecnicamente come viene fuori? Nasce come, viene partorito come un normale elefante, solo che cresce come un mammut. Sì. Intanto cresce come un mammut con un'identità labile, nel senso che prende anche un po' di quello che prende di sua madre, immagino, come minimo, già, quindi diventa già un mammut meticcio, nel senso che, posto che fosse mai stato un vero mammut, nel senso che prende l'altro. Poi, come veniva ricordato prima, giusto appunto, si ammala subito di un'infinità di malattie, perché tutte le malattie, tutti i virus che si sono abbattuti sulla faccia della terra dall'epoca in cui i mammut erano inseguiti dagli uomini a oggi, se li prende tutti quanti. Quindi grandi starnuti di mammut, si può immaginare veramente tremendi. Una vita terribile. Lui probabilmente poi alla fine, se posso avanzare una ipotesi, assomiglierà anche molto a questa elefantessa asiatica, con cui forse gli sarà detto qualcosa. Lì. Ecco, no, ci ha spiegato il genetista che fisiologicamente e anatomicamente è proprio un mammut, perché l'ovocita è di mammut. Diciamo esternamente, no, senz'altro, lo è. Culturalmente. Ah, culturalmente, sì. Beh, ma culturalmente il mammut avrà preso da sua mamma, quella, insomma, quella... Sì, perché in fondo è un animale senza storia. L'unica cosa, la storia più vicina che ha è quella materna, insomma. Sì. Però, insomma, è un principiante assoluto. È un principiante. E del resto questo varrebbe anche per i Neanderthal, perché avevo letto che si diceva che un Neanderthal appropriatamente pulito, sbarbato e vestito, messo dentro alla metropolitana di New York, passerebbe inosservato rispetto a tutti gli altri. Sì, è vero. Non è so, vero. Ma Pievani, sei d'accordo? Forse... È un'antica simulazione fatta già 30 anni fa e confermata. Diciamo che noteremmo qualche aspetto un po' massiccio, nel sopracciglio, nella fronte un po' sfuggente, ma vista anche la ampia diversità umana che c'è nella metropolitana di New York. Lei dice così, sì, perché un conto è vederlo come lo vediamo sempre noi, con in mano una lancia grezza, vestito di pelli. Ma se gli metti su un cappotto, un cappuccio, in fondo può passare. Ecco, però vi chiedo, quest'ultima cosa direbbe, questa cosa allora potrebbe veramente andare come abbiamo visto in alcuni film, cioè si pensa alla grande impresa e poi in realtà viene fuori un po' una tragedia, questo animale si ammala e muore subito no, dopo. No, perché poi anche come diceva Ferraris e come è successo anche con Dolly, in effetti vivono poco questi individui perché sono molto fragili. Dolly è durata, mi sembra, qualche anno. E quindi questo forse, no, potrebbe in generale in realtà un rimbalzo sul pubblico, perché toccherebbe con mano e con gli occhi qualcosa di estremamente triste, no? Ferraris. Sì, ci sarebbe un po' l'idea che questa scienza miracolosa poi in realtà produce soltanto delle storie, appunto, come dicevi, delle storie triste. Quindi da questo punto di vista si trasformerebbe in un boomerang proprio per il prestigio e la credibilità della scienza, io credo. Però forse è giusto ricordare, Pievani, che il mondo scientifico su questa cosa qui non è che è d'accordo, insomma, non lo segue oggettivamente questo tipo di imprese, no? No, il consenso in questo momento è decisamente sfavorevole, tutti quanti dicono, appunto, come si diceva adesso, che il rapporto costi-benefici è totalmente sbilanciato, perché a parte l'inesistenza di vantaggi medici eventuali, c'è anche il fatto che è inutile sul piano conoscitivo, nel senso che tutte le informazioni che potremmo trarre da una sperimentazione di questo tipo l'avremmo comunque completando i genomi e andando a vedere quali sono le mutazioni divergenti fra noi e le altre specie. Fra l'altro ricordiamo che tra il mammut e quell'elefantessa asiatica c'è una separazione di 7 milioni di anni, ecco, loro sì, antenato infatti comune è vissuto molto tempo fa, quindi è un po' molto simile fra l'altro alla separazione che c'è tra noi e gli scimpanzé. Il dubbio che ho io, facendo un po' l'avvocato del diavolo e essendo totalmente d'accordo con questa condanna etica, è che in fondo però nella storia della scienza tante volte una sperimentazione è stata fatta proprio soltanto per vedere se si riusciva a farla, quindi io non escludo che la curiosità umana possa comunque spingersi a guidare su queste tecniche. Certo. In questo contesto in effetti negativo, provo a pensare all'unico vantaggio, Telmo, dimmi tu se è possibile, di nel momento in cui potremmo toccarlo con mano, vederlo, se possiamo capire veramente qualcosa in più su come è vissuto? Sul suo comportamento come animale? Ma potremmo trovare qualche reminiscenza, ma per fare questo, anche in questo caso, non è necessario imbarcarsi in un'impresa di questo tipo. E il caso di Dolly, che avete citato prima, è molto significativo, perché è vero che il DNA da solo fa tanto, ma quando noi andiamo a manipolare con queste tecniche il DNA e lo reimpiantiamo in un nucleo, rifacciamo i cromosomi, poi andiamo a fecondare l'uovo, la cellula uovo di un'altra specie, queste sono tutte interferenze e noi sappiamo benissimo che il DNA è suscettibile di queste interferenze. Per esempio Dolly invecchiava molto precocemente, quindi manipolando e facendo questi esperimenti non è che il DNA rimane puro, intatto, come dicevamo prima, come un alfabeto simbolico, ma interagisce con la sperimentazione e non sappiamo con quali effetti, in sostanza. Ci rivediamo con le foto del mammut. Nel 2015 ci risentiamo. Essendo una radio vi faremo sentire il barrito. Chissà se barrisce poi, in realtà. Chissà se barrisce. Avrà preso subito un tremendo raffreddore, come diceva Ferraris. Starnutirà. Grazie Ferraris, grazie Pievani. Grazie a voi. Arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo alla soluzione del quiz. La domanda era: quale delle tre tecnologie che vi ho elencato era quella vera rispetto a un'applicazione estremamente importante, cioè la possibilità di individuare presenze di esplosivi, per esempio, certo, nelle operazioni di sicurezza negli aeroporti. Allora, niente formiche, la paratrechina longicornis ha una notizia che la riguarda, ma non c'entra con gli esplosivi. Infatti hanno scoperto che sono incestuose, vabbè, insomma, quando le cose sono così bisogna dirle. Invece non c'è nessuna fluorescenza degli esplosivi. La soluzione era le piante. Sono le piante la base della nuova tecnologia. Le piante hanno una grandissima capacità di reagire alle sostanze chimiche, tipicamente cambiando il colore delle foglie. Però la mutazione avviene in tempo lungo. Questo cambiamento avviene in tempo lungo. Quello che si è ottenuto invece è di introdurre delle modifiche genetiche in una specie del tabacco, l'Arabidopsis thaliana, che è in grado di reagire in pochi secondi con queste modifiche. La tecnica non è ancora completamente definita, ma pare che si sia nella direzione giusta. Vi segnalo un tema che è trattato sull'ultimo numero di Newton, il mensile di scienza con il quale Mebius sta collaborando da un po' di tempo, e penso che per molti potrebbe essere la fine di un grande immaginario. Mi riferisco al candore, alle sottili ombre, a quelle